24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7:31 minuti in questo istante, eccoci cari ascoltatori in diretta fino alle 9 e vi preannuncio che oggi torneremo a parlare di immigrazione, perché prendiamo spunto per il nostro sondaggio di oggi da un libro edito da Chiare Lettere che ha un titolo forte, provocatorio, si intitola così: Grazie, senza gli immigrati, ecco perché senza gli immigrati saremmo perduti. È un libro che analizza come il 10% del PIL, la nostra economia, per i tanti lavori che noi non facciamo, sono fatti dagli immigrati, e dunque ha questa tesi: grazie, senza gli immigrati saremmo perduti. Che ne pensate? Siete d'accordo? Schieratevi su radio24.it, nell'home page ci trovate, bianco o nero, che ne pensate? Anche secondo voi dovremmo dire grazie agli immigrati, perché senza di loro saremmo perduti? Ne parliamo poi alle 8:30. Ora andiamo a vedere cosa ci propone il menù dei quotidiani in edicola. Con le stampanti e multifunzioni a colori Xerox a inchiostro solido è più semplice. Vai su xerox.it/promo. Vi presenta In primo piano. Guarda un po', anche oggi magistratura e politica la fanno da padrona. Puglia, arrestato il PD Frisullo, e questo è il titolo uguale di Corriere e Repubblica. PD manette in Puglia per La Stampa, Il Messaggero: scandalo sanità, arresti in Puglia. Per Libero: soldi e escort della sinistra. Per Il Giornale: c'è chi telefona e chi ruba. Il Fatto Quotidiano invece sposta l'asse, ma sempre il tema è quello: 'Ndrangheta, votate PDL, un'inchiesta della DIA nel 2009, uomini legati alle cosche puntavano tra l'altro a Milano su La Russa e altri candidati, ma certo il nome più famoso è quello del ministro alla difesa. Per Il Sole 24 Ore, fondo PMI da 1 miliardo, cose un po' più concrete, vale a dire è nato ufficialmente il Fondo Italiano di Investimento per le piccole e medie imprese, e poi lo vedremo. Poi oggi è anche il giorno del decreto sugli incentivi del Consiglio dei Ministri. Aldo Gradimento, questo è il titolo dell'Unità. Aldo è la foto di Aldo Busi. Avete sentito, bandito dall'Isola dei Famosi e dalla RAI, il naufragio della televisione pubblica, questo per l'Unità. Mentre Il Manifesto mette un Berlusconi a Napoli ieri, core ingrato, Berlusconi corre a Napoli, ma ritardi, tiepida accoglienza al comizio. Allora, come detto, ancora la magistratura, ancora le intercettazioni, questa volta ci viene in mezzo un uomo della sinistra. L'ex vice di Vendola Frisullo, arrestato ieri insieme ad altri per presunti scandali sulla sanità pugliese, ex vicepresidente della giunta, arrestato di ieri. L'accusa è associazione per delinquere a turbativa d'asta, indagato per corruzione, avrebbe utilizzato sostanzialmente il suo peso politico per far aggiudicare all'amico Giampaolo Tarantini appalti per 5 milioni di euro all'ASL di Lecce. Giampaolo Tarantini è quello anche delle inchieste, o meglio delle inchieste, delle vicende sulle escort e il presidente del consiglio, perché di lavoro fa l'imprenditore proprio nel campo della sanità. A pagina 3 di Corriere della Sera, ma lo troviamo Repubblica, Il Giornale, ovunque, ci sono le intercettazioni, o meglio i verbali di quello che avrebbe detto Giampaolo Tarantini, che avrebbe portato all'arresto e che ha portato all'arresto di Frisullo. Tarantini dichiara: sono due gli unici politici pugliesi ai quali ho corrisposto tangenti. Uno è appunto Frisullo, l'altro nome è coperto da omissis dai magistrati, probabilmente in attesa di ulteriori verifiche. Ho conosciuto Frisullo attraverso l'imprenditore Roberto De Santis, e questa è la dichiarazione di Tarantini. Gli chiedevo alcuni piaceri in cambio di denaro, cosa che effettivamente avvenne. Parla di tangenti: consegnai per esempio in un'occasione 80.000 euro, trattenendo per me 10.000 euro. Erano destinati a Frisullo, a me interessava dare i soldi a lui per consolidare il rapporto in vista di altri interventi. Insomma, a volte ci incontravamo dal distributore di benzina a San Giorgio Torre a Mare, lui arrivava con la sua macchina, faceva uscire l'autista della regione, io entravo e gli davo i soldi. E poi, in cambio, oltre ai soldi, immancabili le prestazioni sessuali. tanto che il Corriere della Sera intervista anche Terry De Nicolò, vale a dire una escort, che dice: sono stata con lui un paio di volte, solo due incontri, sono stata usata come tangente. Peraltro è andata Giampaolo Tarantini, l'ha fatta incontrare sia Frisullo sia Silvio Berlusconi per una serata a Palazzo Grazioli, sempre Terry De Nicolò. L'intervista di Fiorenza Sarzanini a pagina 5 dice: sono stata usata, mi dicevano che incontravo un politico famoso, cioè che serviva a me, e invece sono stata ingannata e sfruttata, sono stata usata come una merce di scambio, ora mi dispiace per la mia famiglia ogni volta che il mio nome finisce sui giornali. E intanto ovviamente sia Repubblica che La Stampa intervistano Vendola, che è il governatore uscente della Puglia che ricorre come governatore e che dice sulla Stampa sostanzialmente: rispetto la magistratura e il voto non verrà influenzato. Su Repubblica è ancora più esplicito, dice: io è come se fossi al cinema, vedo un film che mi lascia in apnea. Il rapporto tra il presidente e i suoi assessori è costruito sulla base della fiducia, totale lealtà. Parliamo comunque di cose da verificare, non prenderei tutto per oro colato. E poi dice su il voto: sì, questo si risolverà a mio vantaggio però, perché sostanzialmente io a suo tempo, a luglio del 2009, appena ho avuto sentore di una fuga di notizie, ho avuto la percezione di un dolore insopportabile e cosa ha fatto Vendola? Forse ricordate, ha azzerato la giunta. Tra l'altro, in questa intervista doppia, insomma, alla Stampa, invece dice Vendola: quando capii che con Frisullo dovevo rompere, sostanzialmente, quando all'uscita delle prime notizie l'autodifesa di Frisullo immediata fu: a me piacciono le donne. Quando in questione c'entra l'etica pubblica, Vendola dice: quando in questione invece c'era l'etica pubblica, non un orientamento sessuale, per me il sipario su Frisullo calò in quel momento in maniera irreversibile anche sul piano politico. Non sono un carabiniere, non sono un PM, non voglio le prove dei reati, sono un politico. La politica deve ritenere inaccettabile anche solo l'insorgenza di una filosofia del malcostume. Insomma, adesso sotto attacco è il PD per questa vicenda, mentre continua la vicenda Trani con l'inchiesta Berlusconi, tra l'altro verrà probabilmente, dicono tutti i giornali, stralciata e portata a Roma. Troviamo sia sull'Unità sia su Il Giornale la famosa intercettazione di cui si era parlato e di cui oggi si può leggere tutto, di Minzolini, il direttore del TG1, che parla con Bonaiuti, il portavoce del Premier. Cioè Minzolini andò a Trani, fu interrogato e poi, questa è l'accusa della procura di Trani, ha rivelato, sebbene dovesse tenere tutto segreto, ha rivelato il segreto d'ufficio, ha violato il segreto d'ufficio rivelando i contenuti dell'inchiesta in questa telefonata a Bonaiuti. Vabbè, la leggo dal Giornale, tanto è uguale, trascritta sia sull'Unità che sul Giornale. Augusto, sono Paolo, come stai? Paolino, volevo sapere com'è andata. E Minzolini, tutto bene, è una cosa abbastanza ridicola, una follia. Dicevano una questione che riguarda l'American Express, le carte di credito. E poi parlano, insomma, Bonaiuti dice, ma insomma, com'è? Ma no, ma prima sostanzialmente io e il povero del Noce interrogati, lui tra l'altro ormai fa la fiction, non c'entra niente. Mi hanno richiesto di questa cosa qui se per caso io avevo mai conosciuto i vertici dell'American Express, proprio una cosa che non so da dove nasce. E Bonaiuti dice: ma ti hanno fatto perdere quanto? Un giorno? Sì, un giorno intero, poi le complicazioni, ste cose qui, parla, riparla. Ma non c'è nulla quindi? Chiede Bonaiuti. Ma io ti ho detto che non ne so proprio nulla di questa cosa qui. Immagina che soltanto che io pago un sacco di interessi all'American Express, dice Minzolini. Insomma, quindi una stronzata, chiude la telefonata a Bonaiuti. Ma sì, soltanto che però fa capire che siamo in un paese di folli. Guarda, proprio di folli. Ci sono degli omissis e il Giornale dice, vedete, non si cita nemmeno in nessun modo Berlusconi, cioè parlano di questa vicenda dell'American Express. Tra l'altro la cosa divertente, dice Minzolini, che sono andato a verificare, ci siamo accorti che siamo stati gli unici a dare la notizia, nemmeno il TG3, di questa storia delle carte revolving, non so proprio nulla. parlano insomma della vicenda delle carte. Poi l'inchiesta dalle carte si è ampliata appunto alla vicenda delle intercettazioni, Agcom e quanto già sappiamo. Intanto la politica chissà che farà Sgarbi, perché Sgarbi è stato riammesso nelle liste con la sua lista nel Lazio e ora potrebbe chiedere addirittura un rinvio del voto, ma oggi vedrà Berlusconi. Sgarbi fa capire, deciderà Berlusconi. L'orientamento pare che non ci sarà una volontà di rinvio del voto anche da parte di Berlusconi. Berlusconi, che leggiamo sul Sole 24 Ore, attacca Santoro e i PM, hanno rotto le scatole, ora una grande riforma della giustizia. Ieri era Napoli, c'è da dire in questa chiermesse elettorale, dove anche lo stesso Libero dice si è visto un Berlusconi mai così nervoso, in tanti anni non l'abbiamo mai visto così, già appena scende dall'aereo gli girano, scrive Salvatore Dama, inviato a Napoli a seguire Berlusconi. Non ci sono neanche tante persone a questa manifestazione e quindi pazienza. Berlusconi però, un Berlusconi che non è in vena e che dice Libero, è preoccupato, lo angosciano le inchieste che gli rovinano addosso ogni volta che si apre una campagna elettorale. Vabbè, intanto pare che Alain Delon, ieri ve l'avevamo detto, doveva interpretare Berlusconi, ma si legge su Repubblica, l'agente di Alain Delon dice non è nei nostri progetti fare il film ispirato alla vicenda della Daddario interpretando Silvio Berlusconi. Vi terremo sicuramente informati sugli sviluppi di questa fondamentale notizia. La politica, quella vera, insomma, è praticamente sparita, cioè non c'è sui giornali. L'unico tema che sta montando, e da un paio di giorni ne parlavamo, è quello del rischio astensionismo. Ne parla oggi il Riformista in prima pagina. Astenersi da Silvio. Il non voto può sfiorare il 40% secondo qualcuno. Non votare è un regalo della sinistra, dice Berlusconi, mentre c'è l'analisi del Riformista che dice attenzione, perché questo non voto può arrivare un incubo astensione fino al 40%. In prima pagina del Corriere è Sergio Romano che invece, partendo dallo spunto dell'alta astensione che c'è stata alle regionali in Francia, dice l'astensione fa male a tutti. Questo nel titolo, è il titolo dell'editoriale di prima pagina del Corriere. Dice Sergio Romano, attraversiamo certo un brutto periodo, abbiamo serie ragioni per essere irritati dall'indecoroso spettacolo di una classe politica che non perde occasione per fare sfoggio della sua volgarità e della sua imprudenza, ma non dovremmo dimenticare che a ogni elettore accade molto spesso di dover scegliere quello che rappresenta il meno peggio. Chi va alle urne e vota per un candidato o un partito acquista il diritto di richiamare le persone prescelte all'osservanza degli impegni presi durante la campagna elettorale. Privarsi di questo diritto è perlomeno imprudente. Dunque Sergio Romano dice è sbagliato astenersi. Vabbè, la politica è questa. Per quel che riguarda l'economia invece io partirei dal Giornale, dove c'è una lunga lettera di Giulio Tremonti, il ministro dell'economia. Risponde alle accuse di immobilismo, l'accusa principale al governo, elenca invece tutti i provvedimenti congiunturali, 22, fatti in 22 mesi, un lunghissimo elenco che poi continua in una intera pagina, pagina 12, all'interno di Giulio Tremonti, che dice non siamo stati immobili sulle cose che si potevano fare, siamo stati irremovibili su ciò che non si doveva fare. Questo sì, le riforme nessuno Stato le ha attuate, il governo invece almeno le ha impostate, dalla scuola alle pensioni. Nel gestire la crisi abbiamo dovuto scontare la nostra maggiore debolezza, il debito pubblico. Abbiamo infatti il terzo debito pubblico del mondo, scrive Tremonti, ma non abbiamo la terza economia del mondo. Il governo Berlusconi ha agito nell'interno di questo quadrante, ha fronteggiato tre rischi: il rischio di un collasso dei conti pubblici, il rischio sociale e il terzo rischio, quello del collasso produttivo. Insomma, comunque un Giulio Tremonti che prende carta e penna e scrive al Giornale per difendere l'operato dal punto di vista economico del governo. In primo piano. fondo piccole e medie imprese da 1 miliardo, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore e parla a pagina 3 della nascita, appunto, sostanzialmente presentato al Ministero dell'Economia, che cosa? Il Fondo Italiano di Investimento, appunto, per le PMI, una società di private equity voluta dal Tesoro per sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Se ne legge a pagina 3, ma quello che mi interessa di più nella segnalazione dal Sole 24 Ore a pagina 2, vale a dire gli incentivi al via fino a dicembre. Oggi verrà presentato in Consiglio dei Ministri il decreto incentivi, ma sostanzialmente qualcosa c'è già anticipato sul Sole 24 Ore. Che cosa dovrebbe succedere? Per le lavastoviglie lo sconto dovrebbe essere del 20% fino a un massimo di 130 euro, sconti per forni elettrici e piani cottura. Poi per gli scooter elettrici, se si cambia il vecchio due ruote con motociclo dotato di alimentazione elettrica doppio esclusiva, lo sconto del 20% fino a un massimo di 1500 euro. In ogni caso sarebbero gli incentivi che partirebbero dal 15 aprile, in vigore dal 15 aprile, i contributi. Gli aiuti si muoveranno su 3 filoni: mobilità sostenibile, sistema casa, sicurezza del lavoro, e secondo la bozza dovrebbe essere previsti 85 milioni di euro per le abitazioni ad alta efficienza energetica, 58 per i mobili della cucina, 50 per gli elettrodomestici, 35 per le gru edili, 18 milioni per i trattori, così via. Non resterà poi che aspettare oggi per i dettagli, ma qualcosa è già anticipato. È sul Sole 24 Ore, per l'appunto. Trovate molto ancora della vicenda dei preti e pedofili, così viene sintetizzata, perché oggi verrà messo il sigillo papale sulla lettera al clero pronta, al clero irlandese per la precisione, era stata annunciata settimana scorsa, in realtà verrà resa nota forse lunedì prossimo. Ma c'è anche questo forte attacco, un forte attacco che il teologo svizzero Hans Küng, che tra l'altro è amico del Papa, ma ieri in un editoriale apparso nei giorni scorsi sulla Süddeutsche Zeitung e ripreso ieri da Repubblica in Italia, ha fatto un duro attacco. Ci ha detto sostanzialmente il primo responsabile di tutta questa vicenda è lo stesso Papa Ratzinger, che occultò in passato e poi difende il celibato, quando dice Hans Küng il celibato certamente potrebbe essere una delle cause di questi abusi. Insomma, tema dibattuto. Si parla su Repubblica di un papa molto amareggiato per le parole di Hans Küng. Il Manifesto mette in pagina 7 questa vicenda, che inizia così: voi giornalisti scrivete solo bugie, falsità, imprecisioni, click, mette giù. È la vicenda che riguarda Andrea Agostini, un prete che secondo Rete Laica di Bologna, seppure condannato 2 anni fa in primo grado a 6 anni e 10 mesi per atti di pedofilia, non solo veste ancora l'abito talare, ma oltretutto è stato trasferito nel santuario della Madonna di San Luca, un luogo simbolo per la spiritualità felsinea. Dunque siamo a Bologna. Chi mette giù al giornalista del Manifesto è il portavoce del cardinale Caffarra, vale a dire arcivescovo di Bologna. Questa vicenda ha promosso al santuario il sacerdote pedofilo, titola così molto duramente il Manifesto, anche se l'intervista del giorno, il colloquio del giorno su questo tema è sul Foglio, dove parla Gian Maria Viani, il direttore dell'Osservatore Romano. Ma come? È proprio il direttore dell'Osservatore Romano, lo stesso Gian Maria Viani che Giuliano Ferrara ha indicato come la fonte possibile della vicenda Dino Boffo sul Giornale, di quella velina passata al Giornale che è costato il posto e anche molto della reputazione, le polemiche di Dino Boffo. Gian Maria Viani invece parla oggi al Foglio e parla proprio di queste accuse di Hans Küng, di questo teologo, dice parole che assolutamente sbagliate, fa questo attacco contro il Papa che nel 2005, 5 mesi dopo la sua elezione, lo invitò a Castel Gandolfo in amicizia per discutere delle comuni basi etiche delle religioni e del rapporto tra ragione e fede. Kung, dice il direttore dell'Osservatore Romano, offre articoli preconfezionati, pezzi scritti per andare dietro a stereotipi più che per entrare nel fondo delle questioni. E poi difende il celibato Gian Maria Vian. Non è vero. Insomma, c'è questa discussione anche molto dotta, c'è qualche fondamento del celibato anche nel Vangelo, dice Gian Maria Vianne, cita per esempio Matteo. Insomma, respinge tutte le accuse, il Papa è molto amareggiato, sa tutto, è molto informato, legge i giornali, li legge tutti ed ecco poi la chiusura. Ecco, Gian Maria Vian dice, del resto bisogna elogiare, non ho complessi, attaccare la cattiva stampa ed elogiare la buona stampa. Del resto sono qui a parlare con il Foglio, no? E quindi ecco la dimostrazione che sicuramente fa un po' scalpore il fatto che Gian Maria Vian, accusato da Ferrara di essere in qualche modo la possibile fonte del caso Boffo, parla proprio con il giornale di Ferrara. Voglio chiudere, la segnalazione ultima la faccio non dai quotidiani ma da un settimanale, vale a dire Panorama. Oh, c'è tutta la vicenda di Aldo Busi, espulso dalla RAI, ma ve la risparmio, c'è un bel commento di Aldo Grasso, comunque trovate molto, espulso dalla RAI, soprattutto perché ha attaccato il Papa. Omar, ho ucciso per colpa di Erika. Per la prima volta in un memoriale, Omar Favaro, l'autore della strage di Novi Ligure, ne abbiamo parlato, prende carta e penna e scrive a Panorama. Fin dall'inizio mi sono assunto le mie responsabilità, non ho paura di uccidere ancora, so benissimo che non potrei mai più fare del male a nessuno, è tutta colpa di Erika, sostanzialmente dice, porterò sempre con me quello che ho fatto, non dimenticherò mai, ma riesco a convivere col passato. Parla del suo percorso, il suo percorso di, lui dice, redenzione, e poi dice, attenzione, non provo vergogna nel farmi vedere in giro, ma non accetto di essere ripreso e fotografato. E poi dice, attenzione, la foto che è stata messa dicendo ecco Omar oggi su alcuni quotidiani è una cosa gravissima, non sono io in quella foto. E poi dice, ritengo prematuro rispondere alle richieste di interviste perché sto preparando un libro. Omar Favaro sta per scrivere un libro. Ci fermiamo. Secondo voi, gli immigrati, senza gli immigrati, l'Italia sarebbe un paese perduto? Votate su Radio24.it. Rieccoci alle 8:18 minuti. Ben ritrovati, 24 mattino ed è il momento dell'economia. Con le stampanti e multifunzione a colori Xerox a inchiostro solido è più semplice. Vai su xerox.it/promo. Vi presenta... Soldi e dintorni. Siamo con Deborah Rosciani che improvvidamente, buongiorno. Ma Deborah, guarda, ma adesso ci ho pensato. Si presenta con una maglietta bianconera. A righe peraltro, guarda. A righe bianconere, ma sono orizzontali, quindi sì, guarda, va bene così. Mi hanno fatto un po' male queste qua, nuove quattro pappine sul cranio. Ma devo dire che io non avevo intenzione di dire nulla. Mi fustigo da sola, esatto. Perché qua io non vorrei cambiare squadra, ma ormai siamo proprio praticamente quasi obbligati, squadra. Insomma, la fede calcistica, ecco. Allora, cambiamo argomento. Guarda, ci sono delle realtà, caro Alessandro, che quest'anno prenderanno diversi milioni di euro e 90 onlus che porteranno a casa meno di 10 euro. E quanto risulta dagli elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate sugli istituti che hanno ricevuto il 5 per 1000 delle imposte sulla base delle indicazioni che sono state fornite dai contribuenti italiani nelle loro dichiarazioni dei redditi. In tutto, ha detto ieri l'Agenzia delle Entrate, sono stati ripartiti oltre 397 milioni di euro, soprattutto alle associazioni di volontariato. L'agenzia ha anche ricordato che c'è tempo fino al 30 aprile per le associazioni sportive, per le associazioni di volontariato, per regolarizzare i propri documenti in modo tale da poter concorrere alla ripartizione dei fondi ancora disponibili. Poi a maggio verrà pubblicato un decreto del governo con l'elenco che i contribuenti potranno utilizzare per poter scegliere quest'anno a chi destinare appunto il 5 per 1000. Adesso vi daremo anche l'elenco di quelle associazioni che sono in testa alle preferenze dei contribuenti. Ritorniamo a fare un po' di ABC sul 5 per 1000 e soprattutto cerchiamo di capire se come contribuenti siamo sicuri poi che questi soldi che destiniamo finiscano concretamente nelle tasche delle associazioni appunto destinatarie. Buongiorno a Gianpaolo Concari, componente del Comitato Tecnico dell'Istituto Italiano della Donazione. Benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benissimo. Buongiorno Deborah. Allora, c'è Cominciamo subito in salita, dottor Concari. C'è una polemica che si trascina da anni, da quando questo istituto è stato introdotto, cioè che una volta resa nota la ripartizione delle cifre da attribuire alle ONLUS, agli enti di volontariato, questi non ricevono subito questi denari, questo denaro tempestivamente. In che tempi questi soldi sono disponibili sui conti delle associazioni? Perché a noi come contribuenti interessa saperlo. Ma i tempi di solito sono un po' variabili, per esperienza vedo che passano diversi mesi dal momento della pubblicazione dell'elenco definitivo al momento in cui arriva il bonifico sul conto corrente. A volte le organizzazioni, soprattutto le più grosse, che hanno necessità di fare cassa, devono ricorrere anche ad anticipazioni bancarie pagando poi degli interessi passivi, perché ovviamente i fornitori non è che, o i dipendenti non è che aspettano, non possono aspettare l'erogazione, i comodi dei ministeri. Ecco, però siamo sicuri in ogni caso che anche se tardi arrivano, perché altrimenti l'istituto sarebbe stato smantellato, ci mancherebbe, ci sarebbero state anche delle denunce pesantissime. Allora, in testa alle preferenze dei contribuenti italiani, fino a questo momento c'è l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che peraltro è presente in 3 degli elenchi dei beneficiari, in quello delle ONLUS, grazie al quale l'AIRC ha avuto un'assegnazione di circa 6 milioni di euro, in quello degli enti per la ricerca scientifica, attraverso questo canale ha ricevuto 38 milioni di euro, e in quello degli enti per la ricerca sanitaria, che le ha dato la possibilità appunto di avere un contributo di 16 milioni. Poi fra le associazioni di volontariato la prima è Medici Senza Frontiere, segue Emergency e tante altre. Altre associazioni, dottor Concari, hanno preso davvero pochissimo denaro naturalmente, ma con che criterio si stila questo elenco degli aventi diritto? Principalmente è la cartina al tornasole del radicamento dell'organizzazione sul territorio, cioè in che modo l'organizzazione è riuscita a far attrarre le preferenze, l'attenzione diciamo dei contribuenti su di sé. E sicuramente l'attribuzione viene fatta dai contribuenti attraverso la posizione di una crocetta e soprattutto l'indicazione del codice fiscale. Quindi queste costituiscono le cosiddette attribuzioni dirette, vale a dire che il contribuente, indicando il codice fiscale nella casellina del settore specifico, va ad indicare, a individuare a quale organizzazione intende fornire, intende devolvere il 5 per mille della propria IRPEF. Poi dopo ci sono i cosiddetti resti, cioè le dichiarazioni dei redditi che dove i contribuenti hanno messo la crocetta sul settore specifico ma non hanno indicato il codice fiscale. Allora in questo caso il 5 per 1000 va a finire in un, chiamiamolo così, mucchio, dove in base alle preferenze espresse da altri contribuenti si procede poi ad una ripartizione pro quota. Allora c'è una ricerca della Fondazione San Raffaele di Milano secondo la quale, adesso non do le percentuali perché sarebbe troppo lungo, gli italiani in realtà sono poco informati ancora sul 5 per 1000 pur avendo ormai questo istituto qualche anno di vita, eppure sembra che dagli anni precedenti, dottor Concari, le scelte cosiddette indistinte che lei ci ha ben descritto poco fa siano diminuite. Sì, dopo un exploit per il 5 per 1000 distribuito l'anno scorso si è distribuito il 5 per 1000 per capirci dell'anno 2006, e dopo un exploit dell'anno scorso in effetti è diminuita il totale delle dichiarazioni indistinte, e questo significa che le organizzazioni hanno speso il loro tempo e un po' di risorse umane e finanziarie a informare meglio i propri sostenitori. Anche perché c'è ancora, ecco, chi fa confusione fra il 5 per 1000 e l'8 per 1000, che sono due istituti ovviamente di cui possiamo conoscere le modalità per fare le donazioni dalla nostra dichiarazione dei redditi, però sono due cose separate anche se convivono. Assolutamente, il 5 per 1000 anche come struttura diciamo è completamente diverso dall'8 per 1000, perché l'8 per 1000 comunque dell'IRPEF, indipendentemente dal fatto che il contribuente ponga attenzione a chi intende devolvere questo 8 per 1000, comunque viene trattenuto e messo, diciamo così, nel mucchio dei fondi 8 per 1000. Dopodiché sulla base di delle dichiarazioni dove i contribuenti hanno invece posto attenzione, viene pescato pro quota e quindi si devolve questo 8 per mille. Mm-hmm. Ecco. Il 5 per mille invece sì. No, è diverso, perché è il contribuente che si deve attivare, perché solo quelle dichiarazioni che riportano la crocetta ed eventualmente anche soprattutto il codice fiscale, allora quelle verranno interessate appunto dalla devoluzione del 5 per mille. Un'ultima informazione, diamola di servizio, dottor Concari, a tutti coloro che magari ancora così stanno un po' riflettendo su quello che potrebbe essere l'ente o l'associazione destinataria di una propria fetta di IRPEF quest'anno. Non abbiamo ancora l'elenco dei destinatari, perché anche in questo caso si viaggia sempre con un po' di ritardo, non c'è mai prima di maggio. Questo elenco, aspettiamo, se non sbaglio, un provvedimento del governo. In attesa di questo, come ci possiamo orientare? Darla in ogni caso a quelle più grandi, che è abbastanza inevitabile che riceveranno i fondi del 5 per mille? No, non è che è inevitabile, nulla è, direi che è scontato in questo caso. Bisogna, secondo me, prestare molta attenzione sulla rendicontazione del 5 per mille, cioè sulle capacità dell'organizzazione di dimostrare come, dove e in che modo ha speso questi fondi. Quindi le organizzazioni più virtuose, quelle che sono in grado di dire guarda caro contribuente che i tuoi soldi sono andati effettivamente dove avevamo annunciato che andassero, bene, io da contribuente mi sentirei di riproporre la stessa scelta. Infatti, allora, tra l'altro, adesso non riusciamo a commentare anche questo, ma ho trovato anche questa notizia, che quest'anno risultano inclusi negli elenchi delle onlus beneficiari associazioni che sembrerebbero, almeno dal nome, non proprio bisognose di assistenza: un Rotary Club pugliese, la Federazione Italiana Golf, lo Yacht Club Cupa, il Club Velico Castiglione ed altre cose un po' originali. Magari, dottor Concari, ne parliamo un'altra volta. Intanto io le auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie, presto, spero che si possa fare bene e presto l'attribuzione 5 per 1000, perché veramente infatti, i tempi sono molto stretti ormai. Perché ne hanno proprio bisogno queste associazioni. Sì, grazie, buona giornata Alessandro. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Buona giornata. Buongiorno. Alessandro. E allora? Oggi a Roma c'è una grande manifestazione contro la questione delle polizze dormienti, che ha sottratto tanti risparmi a tante famiglie italiane. Noi ci collegheremo con Mentecitorio e facciamo di nuovo la trasmissione su questo tema, che è un po' uno scandalo secondo me. Allora, il titolo è provocatorio, sì, del libro. Grazie, ecco perché senza gli immigrati saremmo perduti. È il titolo anche del nostro sondaggio. Che ne pensate? È davvero così? Perché questo libro analizza ciò che gli immigrati fanno nella nostra economia, i lavori che per esempio noi non faremmo mai. E vi chiediamo, anche voi vi sentireste di dire senza gli immigrati saremmo un paese perduto? Alle 8:34 minuti le notizie in primo piano. L'ex vicepresidente della Puglia Sandro Frisullo del PD è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione della sanità regionale, accusato di associazione per delinquere, corruzione e turbativa d'asta. Avrebbe ricevuto mazzette ed escort dall'imprenditore barese Tarantini. Intanto Berlusconi sull'inchiesta di Trani torna ad attaccare i giudici e annuncia dopo le elezioni una riforma radicale del sistema giudiziario. Oggi in Consiglio dei Ministri arriva il decreto incentivi ai consumi, fino a 1000 euro per chi acquista una cucina nuova, fino a 1500 per chi compra una due ruote elettrica e ne rottama una inquinante. Queste alcune delle misure previste. Infine per il calcio, tracollo della Juventus in Europa League. I bianconeri, che all'andata avevano vinto 3-1, sono stati battuti 4-1 dal Fulham ed eliminati così dalla Coppa. E allora, alle 8:34 minuti, torniamo a parlare di questo tema, l'immigrazione. Prendiamo spunto anche da un libro in uscita. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Si intitola Grazie, ecco perché senza gli immigrati saremmo perduti. L'editore Chiare Lettere, sono 232 pagine, l'autore è un collega di Repubblica, Riccardo Staglianò, che saluto. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, è dato spunto al nostro sondaggio. Questo è il nostro sondaggio di oggi. Anche secondo voi dovremmo dire grazie agli immigrati, perché senza gli immigrati saremmo perduti? Ne parliamo con te, ne parliamo anche con due onorevoli. L'onorevole Jean-Léonard Touadi del Partito Democratico, buongiorno Touadi. Eccoci, ci sente? No, adesso lo chiamiamo, è il senatore della Lega, Fabio Rizzi. Buongiorno senatore. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, Staglianò, un primo ascoltatore subito via sms dice: ma che è, uno scherzo il sondaggio di oggi? Cioè non trovo un solo motivo per cui dovremmo dire grazie agli immigrati. Forse duro anche dall'altra parte. Perché dovremmo dire grazie? Per tantissimi motivi, diciamo. Perché senza di loro il tenore di vita di cui godiamo da anni non potremmo più permettercelo, semplicemente. Senza le babysitter che la mattina vengono a dare la staffetta alle madri che vanno alle madri e ai padri che vanno a lavorare, quelle persone non potrebbero andare a lavorare. Se poi arrivassero in ufficio e trovassero l'ufficio pieno di cartacce e di sporcizia, si renderebbero conto che perché la squadra delle pulizie della sera avesse fatto sciopero, non potrebbero neanche lavorare. Poi se andassero in mensa e non potessero mangiare perché i lavapiatti sri lankesi non ci fossero più, non potrebbero neanche mangiare. E poi se non trovassero sul piazzo e poi alla fine andassero al bar e chiedessero del parmigiano reggiano e non lo trovassero perché i sikh che lavorano nella bassa padana, insomma, avete capito? Sì. Il libro c'erano 24 capitoli, 24 mestieri essenziali, voglio dire, non mestieri, diciamo così, accessori, mestieri dalle colf, io ricordo le colf, i camerieri, i cavatori, i benzinai, i preti, i panettieri, gli infermieri, i calciatori, insomma, mi ha scoperto sono anche tanti, vabbè, ma quelli sono strapagati, magari li lasciamo perdere. In ogni caso bisognerebbe dire grazie perché fanno tutto questo. Uno dei luoghi comuni che tu cerchi di abbattere nel libro è quest'altro: ci rubano il lavoro. Non lo dico io in verità, ma lo dice un famoso ente, famoso per simpatie terzomondiste e trina ricciute come la Banca d'Italia, che nell'ultimo rapporto sulle economie regionali, il centro studi dimostra come non ci sia alcuna, non una parziale, ma alcuna sovrapposizione fra i lavori che fanno gli immigrati e quelli che fanno gli italiani, aggiunge la Banca d'Italia. Gli immigrati prendono la fascia bassa, bassissima della piramide professionale, lasciando le caselle più alte e permettendo agli italiani di emanciparsi e fare lavori gestionali e amministrativi, quindi lavori più meno faticosi, meno duri, meglio retribuiti per gli italiani, perché ci sono gli immigrati che fanno quelli più bassi. Lo stesso vale anche negli Stati Uniti, è stato fatto uno studio da due importanti economisti che dimostra che una politica di porte aperte, diciamo, all'immigrazione contribuisce in maniera molto significativa all'economia americana, mentre una politica di porte chiuse la deprime in maniera molto altrettanto significativa. Allora, grazie di Riccardo Staglianò. Sfruttati, maltrattati, criminalizzati, tuttavia indispensabili, questa è la teoria, insomma la tesi di fondo di questo libro. Devo dire che il 56% vi state dividendo votando su Radio24.it, il 56% di voi dice sì, bisognerebbe dire grazie, il 44% no. Intanto ci ha raggiunto Gian Leonardo Adi, che saluto, onorevole, buongiorno. Buongiorno. Vorrei però partire, senatore Rizzi, lei se la sentirebbe di dire grazie agli immigrati? L'autore del libro fa tutta una serie di considerazioni, direi assolutamente sagge e puntuali. Bisognerebbe dire grazie a queste categorie di lavoratori e tutto sommato credo che abbia anche ragione, perché non vanno a sovrapporsi con il lavoro degli italiani. Peccato che stia parlando di una goccia nel mare, che sono questi immigrati assolutamente regolari che fanno questo tipo di lavori, di fronte al mare magno degli immigrati irregolari, ai quali dobbiamo solo dire grazie per avere aumentato dalla delinquenza. Non credo che si debba dire grazie ai lavavetri, ai Vucumprà e a tutti coloro che vivono solo ed esclusivamente di espedienti, non certo inseriti nella nostra società. Ecco, questo è il punto Tuadì sul quale Rizzi mette subito, no, l'accento. Certo, porte aperte è bene per quelli regolari che fanno bene, ma non certo grazie a coloro che hanno aumentato criminalità e portano qui altri problemi. Tuadì. Ma secondo me spostare subito la questione sulla patologia, anziché prendere il dato positivo che questa utile provocazione ci ha messo davanti, ossia la presa d'atto di un paese come quello nostro che sta diventando strutturalmente, organicamente un paese di immigrazione, cioè quello è l'utile provocazione che secondo me bisogna raccogliere. Io non so se bisogna dire grazie, ma bisogna che la politica prenda definitivamente atto di questo e quindi aiutare il nostro paese a programmare questa presenza di questa fetta di popolazione italiana che solo impropriamente noi chiamiamo immigrati, perché è gente che non si sposterà più, che ha messo radice nel nostro paese. Per quanto riguarda l'area della irregolarità o della clandestinità, che dir si voglia, stiamo parlando, rispetto al grande numero di circa 4 milioni di irregolari, di qualche cosa di assolutamente fisiologica in tutti i fenomeni di immigrazione. E le leggi, ricordo al collega che parlava prima, che la legge che regola l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia si chiama Bossi-Fini dal 2003. E quindi bisogna chiedere a questi due altri personaggi del centrodestra come mai questa legge, che era stata presentata come la panacea contro l'immigrazione clandestina, ha finito nel suo funzionamento per creare quelle aree di irregolarità e di clandestinità. Tra l'altro, senatore Rizzi, Tuadì dice: perché puntare subito il dito sulla patologia, cioè sulle problematiche che certo anche l'immigrazione comporta, insomma, come in tutti i paesi, e non sottolineare invece gli aspetti positivi? Ma semplicemente perché la stragrande maggioranza del problema immigrazione è la patologia, è l'immigrazione clandestina. L'immigrazione regolare è un fenomeno che esiste, del quale probabilmente è abbastanza vero non se ne possa fare a meno con i flussi migratori, ma è un qualcosa che in questo momento va veramente molto poco ad influire negativamente sulla nostra società, e ho qualche dubbio che possa influire davvero così positivamente come viene dipinto nel libro, ma comunque ne prendo atto. Il problema è che in questo momento la patologia sta assolutamente prevaricando la fisiologia delle cose, e quello che emerge ormai dall'immigrazione è veramente solo la microdelinquenza che continua a essere alimentata e il disagio sociale che deriva. Ma emerge solo questo o è questo che si vuol far emergere? Che sa, sono due posizioni ben diverse. Cioè. Ma ripeto, non è questione di volere o non volere far emergere. Fa notizia, certo, magari. Non è questione di fare notizia, è questione che tutti quanti noi quotidianamente ci troviamo a dover perlomeno discutere con qualche lavavetri, con qualche vucumprà. Difficilmente ci capita di avere a che fare con la badante piuttosto che con il cameriere. E questo sì, è vero, però il disagio viene avvertito dai cittadini. Vorrei tornare su questo da Riccardo Staglianò. Stanno arrivando tantissimi anche messaggi. Staglianò, molti ci dicono: senza gli immigrati faremmo noi lavori umili, che magari è vero non facciamo più, oppure dicono: io farei anche un lavoro umile, ma nessuno mi chiama perché costa meno la mano d'opera straniera, parliamoci chiaro. Allora, queste sono verità poi a due facce, cioè se ci rubano o no il lavoro, giusto per dire questa frase molto abusata, ma tu hai già detto la Banca d'Italia dice di no. Però questo è il tema, insomma, Rizzi dice la stragrande maggioranza del problema è legato invece alle problematiche che portano questi immigrati. Ma no, ma è una cosa, cioè, è una maniera di vedere veramente strana, che io ringrazio molto il senatore Rizzi per aver, diciamo, come dire, ammesso che agli immigrati regolari bisogna intanto dire grazie, che già è un punto di partenza molto, molto positivo. Ma parliamo di numeri, non parliamo di propaganda, diciamo. I numeri sono questi, sono della Fondazione ISMU, che ogni anno insieme a Caritas Migrantes tiene la contabilità degli immigranti. Bene, l'ultimo rapporto ISMU diceva 4,8 milioni di migranti regolari e 422.000 clandestini, in riduzione di un terzo rispetto all'anno prima. Ok, parliamo neanche del 10%, che è una parte assolutamente diciamo, appunto, fisiologico sul totale. Come si fa a dire che noi incontriamo tutti i giorni i clandestini criminali, che poi diciamo la qualifica dei clandestini non è una qualifica naturale, è figlia di una legge molto imperfetta che fa sì che se uno viene, se è regolare e perde lavoro perché diventa crisi, diventa irregolare, diventa clandestino, capite? Sì, ma questo è chiaro. Questo no, è chiaro a noi che parliamo, ma non a tutti gli ascoltatori. Quindi la condizione di clandestino è figlia di una legge che non riesce, diciamo, a trasformare questi 420.000 clandestini in regolari paganti tasse, perché io in tutto il libro cerco soltanto di fare una cosa, come dire, raccogliere dati di fatto e superare questa impasse della politica che appunto una parte, generalmente centro-sinistra, fa appello alla solidarietà, a sentimenti altri, ma molto astratti, che la gente fa fatica a capire, e la destra, il centro-destra, che fa appello alla paura. Diciamo il buonismo e la durezza. Vediamo se sono cose sbagliate. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, grazie, senza gli immigrati saremmo perduti. Che ne pensate? 800 24 00 24. Sentiamo Christian da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. No, io dico che siamo perduti comunque, né più né meno, perché è un paese allo sfascio. Lasciamo perdere questo. Vabbè. Il discorso è, prendiamo l'esempio, voi avete detto gli infermieri, ok? Sì. Gli infermieri è una categoria dove noi per fare l'infermiere dobbiamo fare 3 anni, tra virgolette, di para-università per poter fare l'infermiere specializzato. Ok? Un rumeno, una rumena che arriva dalla Romania con il titolo di studio che non si sa bene come abbia fatto a prenderlo, fa l'infermiera al nostro posto. Che sono in Romania, sono incivili, non no, fanno il titolo di studio. Non devono fare la para-università in Romania, fanno 5 anni. Cioè non è di pari livello. Questo per dire, ci rubano. Per dire che è logico che un italiano non fa l'infermiere, perché si trova a dover fare 3 anni di università per fare l'infermiere. Oggi faccio il medico. Cioè dice, c'è una concorrenza sleale. C'è una concorrenza sleale. A parte questo, per portare un esempio palese, io, un mio vicino di casa, ha perso il lavoro, aveva la patente C, ok, ha cercato in tutti i modi di fare il camionista, un lavoro che dicono che gli italiani non vogliono più fare. Bene, hanno preso un rumeno, perché il rumeno accettava meno soldi, era in proto, pagava meno tasse perché aveva la sede legale in Romania, e quindi l'italiano era tagliato fuori. Quindi va bene, Cristian, no, ma interessante, onorevole Tuadì, è una posizione, diciamo, miope quella di Cristian, che dice c'è una sorta di concorrenza sleale perché dalla Romania, fa l'esempio degli infermieri, oppure una posizione legittima? A dire quello che prima si diceva, che il lavoro degli immigrati è complementare, non concorrenziale, a quello degli italiani per adesso, perché è chiaro, non possiamo pensare che anche i loro figli si accontentino delle fasce più basse del mercato del lavoro. Rosarno ci insegna proprio che alcune fasce di tipologie di lavoro non sono occupate, nonostante una disoccupazione che è il doppio della media nazionale, che sfiora il 18% in quelle aree. Non c'è un giovane calabrese, non c'è un giovane pugliese, non c'è un giovane campano che va a raccogliere pomodori, oppure che va a raccogliere le arance a Rosarno. Questo è il dato. E vorrei dire un po', prima diceva Tagliano del buonismo, vorrei rispondere un po' a questo perché mi dà l'occasione. Io non so cosa sia il buonismo personalmente, io rivendico al centro-sinistra il fatto di aver per la prima volta, per esempio, in questo paese introdotto lo strumento della gestione dei flussi attraverso le quote, della programmazione dei flussi. Rivendico alcuni strumenti moderni che noi abbiamo inseriti. Non siamo il partito dell'anarchia e del lasciar fare. Non conosco cosa sia il buonismo, però conosco invece cos'è il cattivismo del ministro Maroni. Però c'è un po' di buonismo, lei dice, no, magari non del mio partito, però un po' diffuso, questo voleva dire. Se per buonismo si intende quei valori non negoziabili che toccano i diritti intangibili delle persone, allora sì al buonismo. Però si tratta di un orizzonte ideale, di valori che non sono negoziabili, perché appartengono alle persone in quanto persone. Invece sul cattivismo, prima di andare, risponde tra poco il senatore Rizzi, prima un altro ascoltatore, Renato da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo intervenire per questo motivo. Io faccio lavoro di quelli abbastanza umili, nel senso che ho un'impresa di pulizie. Sì. E vivo a Torino. Quindi tutti quegli onorevoli che parlano tanto, che bisogna vedere solo i lati positivi e tutto, se vengono un attimo qua, io me li porto in giro per Torino e li faccio vedere io. Cioè lei è un imprenditore, qual è il problema che riscontra? Il problema è che tutti gli extracomunitari, non dico tutti, comunque ce n'è tantissimi, a cui scoccia pagare le tasse. Non è vero quello che si dice, che grazie a loro prenderemo una pensione. Non è vero, perché io li posso portare centinaia di esempi dove questi qua, quando prendono la busta paga, gli scoccia pagare tutte quelle tasse. Allora, da come scoccia un po' a tutti, insomma. Scoccia a tutti. Anche se qualcuno ha detto che sono bellissime le tasse. Ma non c'entra niente quello. Sì, io sono anche disposto a pagare le tasse. Ma tutti, certo, però ci mancherebbe. Venga a dirmi che l'extracomunitario mi pagherà le tasse. Per quale motivo? Questi qui, dopo che lavorano due mesi, dopo che vengono qui a piangere per farsi assumere tutto, lavorano due mesi, poi scalano le ore, cioè si tengono a posto con i libretti 2-3 ore al giorno. Il resto della giornata vanno a lavorare in nero. Nelle case di quelli onorevoli, di quelli ben pensanti e cose del genere, che non pagano le persone a posto con i libretti, e così hanno la tutela sanitaria, perché sono a posto con le ore a 2-3 ore. Vabbè, lei fa delle accuse molto forti, però, Renato. Però le prendiamo. Devo andare un attimo perché siamo in corsa, in chiusura. Senatore Rizzi, viva, se è buonismo quella difesa dei valori non negoziabili, dice l'onorevole Tuadì, viva il buonismo, non il cattivismo della Lega. Siete cattivi. Ma se questo è essere cattivi, accetto di buon grado l'appellativo e ne vado fiero da questo punto di vista. Vorrei tornare un attimino sui numeri che sono stati detti precedentemente. È vero che 4 milioni sono di immigrati regolari e 400.000 sono quelli stimati. Questi sono dati assolutamente fasulli, figli fondamentalmente di quella situazione di clandestinità che non emerge. In realtà sono molti e molti di più. La Bossi Fini è stata molto criticata e in effetti qualche problema la legge ce l'ha, non tanto sulla regolazione degli ingressi e sulla regolazione dei flussi che anche il PD giustamente voleva attuare. Il problema sono i meccanismi di espulsione che vengono comunque sempre a mancare. Il problema è una certa parte della magistratura, una certa parte di chi dovrebbe attuare i decreti di espulsione che non li attua. Il disagio profondo nelle forze dell'ordine che continuano giorno per giorno ad acchiappare centinaia e migliaia di clandestini che poi non vengono espulsi. Io credo che il fatto importante sia quello di far ripartire la fase 2. Per il momento abbiamo bloccato o quantomeno limitato i flussi in entrata, pensiamo a Lampedusa da 30.000 a 3.000 l'anno scorso e sono diminuiti. Adesso c'è la fase 2, bisogna prendere i clandestini, i delinquenti sul territorio e poterli veramente espellere e rimandare a casa. Allora, va bene, io mi devo fermare qui, questo è il buonismo e cattivismo di cui abbiamo parlato. Voglio, ringraziando l'onorevole Tuadì del Partito Democratico, il senatore Rizzi della Lega, ricordare Riccardo Staglianò, grazie, ecco perché senza gli immigrati saremmo perduti, è edito da Chiare Lettere, potete leggervelo, lo trovate in libreria. Grazie ovviamente io a Riccardo Staglianò per essere stato con noi. Ci fermiamo, il sondaggio sempre 51%, ormai siete divisi, è sceso al 51%, dice sì grazie, insomma metà e metà. Votate su radio24.it. in redazione, oltre a Sara Spreafico, oggi Alessandro Marco Tulli che fa gli straordinari, rimane con Oscar Giannino, eccolo lì, e Peter Bescapè in regia. Noi ci ritroviamo lunedì mattina.